Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buona serata e bentrovati a Radio Doc. Questa sera vi proponiamo un viaggio all'interno di tre fra le più discusse sette religiose del XX secolo: il Tempio del Popolo del Reverendo Jim Jones, la famiglia Manson e la setta giapponese Aum Shinrikyo, responsabile dell'attentato al gas nervino nella metropolitana di Tokyo. Ma questi fenomeni, quali meccanismi sottendono? Spinti da una causa comune e guidati da un leader carismatico, si abbraccia una nuova religione e si dà vita a un movimento politico. Il gruppo appare ai suoi membri come nobile, pieno di ideali, ma poi varca una soglia e diventa setta. Le sette religiose presentano tre caratteristiche. Ce le spiega Robert J. Lifton, professore di psichiatria all'Università di Harvard. La prima, il rispetto dei precetti religiosi viene rimpiazzato dalla venerazione per la figura del guru. La seconda caratteristica è un vero e proprio lavaggio del cervello, che si realizza con l'indottrinamento programmato, dando molto spazio alla confessione, alla critica e all'autocritica in modo sistematico. La terza caratteristica implica lo sfruttamento da parte della leadership. Si tratta solitamente del guru o delle persone più alte in grado. Sto parlando di uno sfruttamento sia economico che sessuale. Quello che per alcuni è superstizione, per altri è religione. È stato così sin dalla notte dei tempi. Per molto tempo i romani considerarono i seguaci del Nazareno, ora chiamati cristiani, semplicemente membri di una setta. Eugene V. Gallagher, professore di studi religiosi al Connecticut College. Il cristianesimo nasce all'interno del giudaismo come movimento dissidente. Perciò, fin dall'inizio, c'è tensione tra giudaismo e il movimento di Gesù. Certamente anche la predicazione di un regno mette in allarme. I romani già ne avevano uno e non ne desideravano un altro. Ci troviamo così di fronte ad un leader carismatico portatore di un messaggio che sfida sia l'autorità religiosa che quella secolare. Il cristianesimo impiega centinaia d'anni per diventare una religione. In effetti, gran parte delle principali religioni, come il buddismo, l'islam, il mormonismo, hanno una storia simile. Etichettate come sette, devono sopportare sospetti e persecuzioni prima di cambiare status. La maggioranza delle sette non è violenta e alcune sono ormai comunemente accettate. Il problema, infatti, non sta nella religione in sé, ma nel fatto che i guru la sfruttano per commettere e coprire crimini inumani. Lynn, Indiana, 1941. Il pastore Jim Jones, di appena 10 anni, si prepara a dire messa. Trascurato dai suoi genitori e spesso solo, Jim viene spinto dal suo interesse per la Bibbia a frequentare una chiesa pentecostale. Credendo che la salvezza venga dallo Spirito Santo, i pentecostali dimostrano la loro fede con guarigioni miracolose, parlando lingue sconosciute. Spesso ostracizzati per i loro comportamenti estremi, i pentecostali accolgono Jim senza remore. La religione offrì a Jim Jones la speranza e l'amore di cui aveva bisogno, ma lui bramava il potere. Imparò presto a sfruttare la religione per i propri fini. Attirava i bambini a casa sua col pretesto di studiare la Bibbia e poi li rinchiudeva. Coltiva il proprio talento oratorio, studiando i discorsi progressisti dei leader socialisti: Marx, Lenin, Mao. Cresciuto in povertà, Jones ritiene che la Chiesa debba sostenere i suoi adepti. Quando fonda la sua Chiesa, Jim Jones ha ormai elaborato la visione del suo ministero, che definisce socialismo apostolico. Tim Carter, ex seguace. Sfamare gli affamati, vestire gli ignudi, assistere i malati e i bisognosi erano questi i bisogni fondamentali al centro delle attività della sua chiesa, o almeno era quello che credevo. All'età di 35 anni, Jim Jones è un uomo di successo. La chiesa da lui fondata, ribattezzata People's Temple, attrae schiere sempre crescenti di nuovi adepti. Jones ha una moglie che condivide il suo impegno per l'uguaglianza razziale, ma la visione radicale di Jim e il suo atteggiamento liberale sono troppo per la conservatrice indiana. Nonostante la congregazione sia in espansione, Jones si sente perseguitato e frainteso. Deve quindi trasferire la sua chiesa in un contesto favorevole, un luogo in cui le idee progressiste e l'attivismo sociale siano accettati. Il People's Temple si trasferisce nella California settentrionale. La baia di San Francisco offre il clima sociale adatto al People's Temple. Nelle comunità progressiste di San Francisco e delle zone limitrofe, Jim Jones recluta un piccolo esercito di adepti profondamente impegnati nel sociale. Ancora Tim Carter. La comunità progressista e quella liberale di San Francisco ci adoravano perché eravamo presentabili e responsabili e avevamo denaro e aiutavamo la gente bisognosa. Case di riposo per gli anziani, insegnamento di sostegno, assistenza legale gratuita. Il People's Temple forniva molti servizi sociali. Ma per Jim questi programmi servono ad alimentare un bisogno tutto suo. Peter A. Olson, psichiatra. Jim Jones si è servito dei programmi sociali e del Tempio per accrescere il proprio senso di onnipotenza e di importanza e per glorificare se stesso attraverso questi progetti. Nonostante i primi campanelli d'allarme, il Temple continua ad attirare nuovi adepti, in particolare giovani desiderosi di impegnarsi politicamente. Nel momento della sua massima espansione, il Temple contava circa 2-3 mila adepti. Crebbe considerevolmente dopo la trasferta a San Francisco, grazie anche all'attività di proselitismo. Per una potenziale recluta, il People's Temple è un'organizzazione modello e Jim Jones un affettuoso padre spirituale. Ma successo e potere generano sospetto. Marshall Kilduff è uno dei primi giornalisti a indagare su Jones. Credo che la percezione che si aveva di Jones fosse molto positiva. Pochi lo conoscevano a fondo, ma in pubblico, se interpellavi un esponente politico, ti rispondeva che Jones era un tipo a posto. Ma se gli riformulavo la stessa domanda in via ufficiosa, mi confessava che c'era qualcosa di strano, di poco chiaro attorno a Jones, nel modo in cui riusciva a comandare il suo esercito schioccando semplicemente le dita. Era inquietante. Il potere che Jones esercita sui suoi seguaci non sfugge a Marshall Kilduff. Le sue interviste con ex membri della setta rivelano scioccanti dettagli sulla vita all'interno del Temple. Secondo le ricerche di Kilduff, la gente lavora ai programmi del Temple con orari disumani, 7 giorni su 7. Durante le riunioni, i seguaci vengono costretti a confessare crimini immaginari per i quali ricevevano punizioni corporali. Ex membri affermano che i bambini non sono immuni a simili punizioni. Le testimonianze dipingono Jones come il tipico leader di una setta che sfrutta la spiritualità per controllare gli altri, psicologicamente e sessualmente. Verso la fine del 1977, Jim Jones avverte le pressioni della stampa. Voci di abusi fisici e sessuali circolano senza sosta e i giornalisti non accennano a mollare la presa. La situazione inizia a sfuggirgli di mano. Di nuovo, sentendosi perseguitato, Jim Jones si prepara a partire per l'ultima volta. Dovevano andarsene da San Francisco. Nel 1977, in un articolo pubblicato nella rivista New West, Marshall Kilduff denuncia gli abusi che si compiono all'interno del Temple. Quando la rivista esce, gli adepti sono pronti per l'esodo. Nel giro di pochi mesi, quasi 1000 persone si trasferiscono nella Guyana. Dopo un lungo volo fino alla capitale, Georgetown, i membri del Temple affrontano un viaggio estenuante di 36 ore prima di arrivare alle modeste baracche del progetto agricolo del People's Temple, ovvero Johnstown. Qui, nella giungla sperduta, Jones ritiene di poter avere finalmente il controllo totale. Come tutte le sette, il People's Temple subisce una metamorfosi. Quella che avrebbe dovuto essere un'oasi dove vivere in comune, un paradiso socialista fatto spirito fraterno, si trasforma presto in uno stato di polizia. La comune hippie diventa un lager. Il bambino solitario, diventato un affettuoso predicatore, si trasforma in un dittatore paranoico e disperato. Intanto, negli Stati Uniti, qualcuno decide di intervenire. Il membro del congresso, Leo J. Ryan, viene reclutato da un gruppo di parenti che non riescono più a mettersi in contatto con i loro cari residenti a Johnstown. Il 17 novembre, Ryan arriva a Johnstown con il suo entourage, alcuni giornalisti e i rappresentanti delle famiglie. In un primo momento, Ryan è favorevolmente colpito. Dopo aver parlato con alcuni di voi, malgrado quello che si è detto finora, qui ci sono persone che considerano questo luogo quanto di meglio gli sia mai potuto capitare. ma a un certo punto uno dei visitatori riceve un biglietto. Un seguace del Temple vuole lasciare Jonestown. La notizia crea un effetto domino e altri si avvicinano al deputato per dirgli che sono tenuti lì prigionieri contro la loro volontà. Presto, un gruppo di 9 persone è pronto ad andarsene. Jones è deluso. Comprende di non poter permettere a nessuno di lasciare Jonestown. Marshall Kildarf, giornalista del San Francisco Chronicle. Il cambiamento gli si leggeva sulla faccia. Divenne più cupo. Sto parlando del suo umore. Divenne più cupo e intrattabile. Poche ore dopo, il deputato Leo J. Ryan viene ucciso insieme a 4 membri del suo seguito all'aeroporto di Port Kaituma, nella Guyana. L'ordine è arrivato da Jim Jones. Ma a Jonestown solo Jones è al corrente degli omicidi. Con calma e sangue freddo, convoca una riunione nel padiglione principale. Piuttosto che affrontare la giustizia, sceglie la morte per sé e per tutti gli abitanti di Jonestown. Io penso che dobbiamo essere gentili con i bambini, con gli anziani, e dobbiamo bere la pozione proprio come si faceva nella Grecia antica, senza clamore, perché non ci stiamo suicidando. Il nostro è un gesto rivoluzionario. Non si torna indietro. Non ci lasceranno in pace. Diranno altre menzogne e arriveranno altri membri del Congresso. Non ci rimane scelta. Non possiamo vivere. Mentre in centinaia ascoltano le parole di Jones nel padiglione principale, alcuni membri delle gerarchie più alte preparano la pozione. Una dose letale di cianuro mischiata a del succo di frutta. Ancora Tim Carter. La gente non lo voleva fare e chiedeva a padre Jim di trovare un'alternativa. Lui provava a convincerli, ma se non ci riusciva, li costringeva a bere quella bibita letale. Addirittura c'erano degli uomini armati che forzavano gli adepti a bere quella pozione. Oltre 900 persone, uomini, donne e bambini, muoiono avvelenati a Jonestown. Carter e pochi altri sono gli unici sopravvissuti di Jonestown. Anche Jones muore, ucciso da un colpo di pistola alla testa. La gente di Jonestown credeva in un mondo migliore, ma aveva riposto la propria fiducia in un pazzo e da lui è stata massacrata. Non potremo mai capire fino in fondo gli eventi che causarono quella tragedia. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato al fenomeno delle sette religiose. Il numero dei misteriosi episodi collegati a gruppi esoterici è cresciuto con l'avvicinarsi della fine del millennio. Con l'approssimarsi del nuovo millennio, le sette di tutto il mondo si sono convinte che l'anno 2000 avrebbe portato l'apocalisse. Eugene Gallagher, professore di studi religiosi presso il Connecticut College. Il nocciolo del millenarismo è sintomo di un'enorme sfiducia nel mondo in cui viviamo. Così persuasiva, così totalizzante, che i millenaristi possono immaginare l'avvento di un nuovo mondo solo attraverso l'intervento sanguinario di un creatore. Sul finire degli anni 90, il mondo è attraversato da una visione apocalittica. Molte sette decidono di aspettare la fine dei giorni. Invece, in Giappone, una setta pensa di poter attivamente dare il via all'apocalisse con azioni terroristiche. Nel 1995, l'Aum Shinrikyo è una religione diffusa, il cui centro principale è Tokyo. Guidata da un misterioso guru, Shoko Asahara, l'Aum sintetizza diversi insegnamenti buddisti e indù. Il suo scopo è la ricerca della purezza spirituale. Come accade a molti altri guru, ricercando la purezza, Asahara rimane affascinato dall'apocalisse. Obbedendo ciecamente al loro leader, gli adepti si impegnano a mettere in atto il folle piano mortale. Robert J. Lifton, professore di psichiatria presso la Harvard. Il piano era di avvelenare con il gas la città di Tokyo. I giapponesi avrebbero accusato gli americani, mentre gli americani avrebbero ritenuto responsabili i giapponesi. Altre potenze straniere sarebbero rimaste coinvolte, facendo scoppiare così la terza guerra mondiale, e la guerra avrebbe portato l'apocalisse. 20 marzo 1995, lunedì mattina, ora di punta. Mentre milioni di pendolari salgono sulla metropolitana di Tokyo, i seguaci di Aum Shinrikyo disperdono gas nervino su 5 treni che attraversano la città. L'agente chimico causa soffocamento, convulsioni e morte per asfissia. Circa 5.000 persone rimangono ferite durante l'attacco nella metropolitana e circa un migliaio sono i ricoverati. I morti sono 11. Nei mesi seguenti i governi di tutto il mondo iniziano a comprendere la minaccia che pende sopra tutti noi. Se armi molto potenti finiscono nelle mani di fanatici ossessionati dal mito dell'Apocalisse, le conseguenze saranno drammatiche. I leader reclutano gli adepti con tecniche ingannevoli, attraverso cui li spogliano dell'identità e della personalità. Gli esperti hanno definito queste tecniche rieducazione del pensiero. Il guru Charles Manson adottava un programma fatto di abuso di stupefacenti e violenze sessuali per piegare la resistenza delle giovani reclute, rendendole ricettive al singolare programma rieducativo di Manson. Il California Institution for Women è il più grosso penitenziario femminile nello stato della California. Prigioniera modello da oltre 40 anni, Leslie Van Houten sta presenziando alla sua 16ª udienza per ottenere la libertà condizionata. In circostanze normali avrebbe ottime possibilità. Ma Van Houten non è una criminale comune. 37 anni fa la vita di Leslie era dedicata a una setta, guidata da Charles Manson. Los Angeles, 1968. La California è il centro della controcultura hippie. Migliaia di emarginati con la pelle abbronzata si preparano a godersi un'estate senza fine di pace, amore e vita facile. Una 18enne ex reginetta del ballo della scuola, Leslie Van Houten, scappa di casa per unirsi al mondo hippie. Dopo aver girato la California spostandosi da una comune all'altra, Van Houten incontra un personaggio carismatico, Charlie. Quando Leslie si unisce alla banda, nel gruppo ci sono già molte ragazze come lei. Manson le chiamava la sua famiglia. Patrick.